Rock Wave Live presenta Io mi racconto con Gilles Facchinelli e i suoi ospiti. Tutti i giovedì dalle ore 20.30 alle 21.45 sulle frequenze di Radio Cooperativa. Rieccoci qui, buonasera a tutti da Gilles Facchinelli, dai microfoni di Radio Cooperativa. Anche questa sera ci si trova per una nuova puntata, non ricordo esattamente se la quarta o la quinta, ma questo ha poca importanza. L'importante è essere qui ancora con voi, con la musica, per dare spazio ai tanti giovani che fanno musica e che hanno voglia di far sentire la loro creatività, condividerla un po' con tutti voi. Buonasera da Gilles Facchinelli, ma soprattutto buonasera a questo gruppo che è qui con me e che vado a presentare. Non ci sono tutti perché sono molto impegnati. Hanno alle spalle, pensate, più di 200 concerti, poi ci diranno loro esattamente quanti sono. L'anno scorso, a novembre del 2017, è uscito il loro primo e unico per il momento CD, che si chiama Blue. In tutto loro sono 5 ragazzi e arrivano dal Friuli e sono Alberto Coredig, chitarra acustica, banjo, percussioni e voce, Davide Raciti, violini, ukulele e percussioni, Francesco Imbriaco, chitarra acustica, tastiere, percussioni e voce, e Leonardo Duravig, basso e cori, e Alberto Marnig, batteria, cajon e percussioni. Però sicuramente andranno loro a correggermi. Buonasera ragazzi. Ciao a tutti. Grazie di averci chiamato qua. Veramente grazie. I nomi, non preoccuparti, si sa che comunque la pronuncia è diversa. Poi noi siamo in una regione di confine, quindi vicino alla Slovenia, e possono essere pronunciati come volete, non preoccupatevi. Il gruppo si chiama? 5 uomini sulla cassa del morto. Ecco, che poi spiegheremo un po' lungo. Già qualcuno mi ha detto, ma chi intervisti? Ma c'è un motivo, non è che sia un nome così lugubre. C'è un motivo per cui questi ragazzi hanno dato questo nome. Allora, con noi c'è Alberto e Francesco. Alberto e Francesco. Allora, noi cominciamo. Allora, innanzitutto benvenuti a Io mi racconto e a tutto il gruppo, anche se non siete tutti presenti, dei 5 uomini sulla cassa del morto. Allora, io inizierei proprio da un vostro motto che dice: finché soffia il vento non si ferma il nostro veliero. Come mai questo motto, che l'ho visto un po' dappertutto? Era un po' una metafora. Ci piace anche esprimerci spesso con metafore legate al mondo del mare, delle navi, insomma dei viaggi, sul fatto che comunque finché le cose ci vanno bene, nel senso che veniamo chiamati per concerti, abbiamo passione, entusiasmo, il nostro veliero, che è un po' questa nostra avventura di suonare, non si ferma, è come una sorta di, insomma, immaginario fantastico di quello che facciamo in realtà molto concretamente, che è partire dal Friuli, da dove noi abbiamo la nostra base, con la nostra auto, che ha quasi 400.000 chilometri, e tra l'altro passando di qua siamo passati davanti a un'officina dove siamo dovuti stare l'ultima volta che siamo passati di qua, perché abbiamo avuto un guasto, quindi veramente. E, insomma, questo nostro veliero che ci porta un po' in giro per il nord Italia per adesso a portare la nostra musica ovunque ci chiamano. Possiamo collegarci anche al nome del gruppo. Perfetto. Che non ha, innanzitutto la prima cosa da dire è che non ha niente a che vedere con la morte. E infatti la cassa del morto non è la cassa da morto, è semplicemente un'isola immaginaria che è citata nel romanzo L'isola del tesoro di Stevenson. Praticamente viene incluso in questa canzone 15 uomini sulla cassa del morto e una bottiglia di rum, che racconta una storia immaginaria secondo cui un pirata che è realmente esistito, che si chiamava Edward Teach, anche detto Barba Nera, capitano di una nave, in seguito ad un ammutinamento lasciò su quest'isola deserta, che si chiamava appunto Cassa del Morto, perché era esclusa da qualsiasi rotta percorsa dalle navi, e quindi lasciare degli uomini su quell'isola equivaleva a condannarli a morte. E lui lasciò 30 uomini con una bottiglia di rum e una pistola con un colpo, e tornò un anno dopo, poi ci sono diverse versioni, insomma, e trovò 15 uomini sopravvissuti che non avevano bevuto il rum della bottiglia e non avevano utilizzato la pistola. Quindi questa storia un po' che, diciamo, rivaluta un po' la visione del pirata come uomo inaffidabile. Certo. E invece per dire che comunque questi uomini erano riusciti a sopravvivere senza, insomma, cadere nelle tentazioni un po'. Certo. Poi ci sono diverse letture. Certo. Comunque era uno dei nomi che ci è venuto fuori in una serata un po' particolare in cui ognuno proponeva i nomi che aveva in mente e poi ognuno ha votato, come facciamo tutto in modo molto democratico, poi che funzioni è un'altra sì, è un po' difficile. Però sì, sin dalla scelta del nome questa è stata, insomma, ci piaceva. All'inizio eravamo molto focalizzati sul mondo del mare, dei pirati, con questa idea un po' favolistica. Poi nel corso del tempo abbiamo un po' lasciato da parte questa cosa, però il nome rimane ed è una cosa molto identificativa di noi, che siamo appunto cinque e ci consideriamo appunto in questa sorta di viaggio avventuroso. Però secondo me rimane anche il concetto di come affrontiamo un live, un concerto, no? Perché l'idea dell'arembaggio, l'idea di buttarsi e lanciarsi nelle cose che vogliamo fare, quello lì è rimasto ed è proprio il concetto dell'arembaggio piratesco. Certo. Ma chi ha letto poi? Chi è che ha letto questo libro? Beh, sì, ah, ma no, tutti, da bambini tutti l'abbiamo letto. Ah, quindi tutti. Quindi forse è l'unico libro che ho letto in realtà. anzi, ti dirò di più, i primi concerti lo leggevamo anche dal vivo, la prima pagina. Con la sottofondo musicale leggevamo il libro. Allora ragazzi, io direi di dare subito spazio, anche perché non abbiamo tantissimo tempo a disposizione. Io partirei subito dal Il Sole da Solo, che adesso capirete che genere di musica fanno, poi ne parleremo più in dettaglio, ma vorrei che ci raccontaste in brevissimo tempo questa canzone. Ok, faccio un velocissimo assunto. Il Sole da Solo parla proprio di una coppia che a un certo punto della loro relazione, che possono essere anche due amici semplicemente, uno di loro decide di cercare la felicità da solo. Fa un bellissimo viaggio, ha delle esperienze incredibili, vive cose incredibili, però dopo un po', verso la fine di questo viaggio, capisce che la felicità che provava da solo non era qualcosa che lo completava. E da lì si conclude la canzone capendo che effettivamente la felicità non è niente se non è condivisa. Bellissimo. Allora ascoltiamoci Il Sole da Solo dei Cinque Uomini sulla Cassa del Morto. Radio Cooperativa. Vedo l'alba piangere, guardo il sole senza dare un perché, mi tuffo in fondo al mare, corro libero le strade. Vedo il sole da solo, passo Londra da Berlin, il Grand Canyon e Parigi, costo costi in monoposto, senza sosta e senza costo, prima classe solo andata per la libertà. Cos'è che io rivedrò te e me, sognerò, e se sei lì ascoltami, o non vedrò più libertà. Cavalco soli splendidi, cavalco lune anche sorrisi, muovo l'animo del matto, siamo io il mio lupo astratto. Mi ritrovo sempre solo a sussurrare, augurare, festeggiare ma riempire il mio zaino gran viaggione. Mangio Mac e Burger King, Kate Ring e Mister Rossa, il verme dentro il digestivo, mille robe e uno schifo, ma in fondo è questo il vero viaggio. Prova tutto che la vita è di passaggio. Cos'è che io rivedrò e me sognerò, e se sei lì ascoltami, o non vedrò più libertà. penso al corso della vita, la mia un corso ce l'ha già e finirò per ritornare. Stai tranquilla, primo amore, il mio sole solo aspetta che tu stia qui con me. Rieccoci in diretta. Allora, che dire ragazzi, così si inizia a capire qual è il vostro tipo di musica. C'è un po' di tutto, musica popolare, molto folk, soprattutto molto suoni irlandesi. Allora, raccontateci un po' della vostra musica. Beh, noi scriviamo, innanzitutto la prima cosa da dire è che scriviamo, non c'è una singola persona che scrive, ma quasi tutti i membri del gruppo compongono. E ognuno lo fa a suo modo, quindi già l'idea di partenza, il processo creativo funziona a partire dall'idea di ognuno. Uno arriva con una canzone in sala prova e dice: ho scritto questa canzone, che ne pensate? E poi dopo gli altri possono dire: ah sì, mi piace, oppure no, non mi piace. E a partire da questo poi si comincia ad arrangiare la canzone, e quindi molte volte il risultato finale è completamente diverso dall'idea stessa che chi l'aveva scritta aveva avuto. Certo. E quindi in questo processo è come se l'idea originale entrasse in un macchinario che comincia ad assemblare i vari pezzi, togliere, cambiare, eccetera, e poi viene fuori un prodotto finale che molte volte non è neanche finito quando la canzone finisce, quando finiscono le prove, perché poi con i concerti dopo molte cose cambiano. Certo. Anche di molto. E quindi questo, insomma, processo, siccome non abbiamo un'idea di sound, in tutti i gruppi ognuno ha i suoi gusti, i suoi ascolti, però magari ci sono gruppi in cui c'è un'idea condivisa di sound o di genere. Invece noi non abbiamo mai voluto metterci questo limite, quindi veramente capita anche di avere canzoni molto diverse una dall'altra come genere. Però ci piace comunque l'idea di coinvolgere molto suoni della musica popolare, come dicevi tu. Certo. In particolare il violino in questo è... E poi devo chiedervi anche una cosa, poi, a proposito di violini. Ok. Comunque, ecco, una musica che ascolteremo dopo anche qualche altro brano, inevitabilmente coinvolge, perché coinvolge le persone. Che poi, oltretutto, vi invito ad andare a vedere i filmati in YouTube di questi ragazzi, perché oltre a questa sonorità, a questo suono anche piratesco, come voi amate anche definirlo, hanno anche il modo di vestire che richiama un po' tutto, cioè quindi venite catapultati, coinvolti dentro il loro modo di essere, è inevitabile, dico bene? Speriamo che sia così, dai. Per noi, a noi piace questa cosa qua, speriamo. Allora, questo programma, ragazzi, si chiama Io mi racconto, che vuole anche farvi conoscere sotto tutti gli aspetti un po', no? Perché la gente magari vuol conoscere anche un qualcosina di più. Io sono rimasto affascinato da El Capanon, che è anche una parola padovana. Voi siete del Friuli, ma è anche padovana El Capanon. Cos'è il Capanon? Noi per il Capanon penso che volessimo dare un tono esotico, un po' spagnoleggiante probabilmente. E la cosa interessante è stata bella che poco tempo fa abbiamo preso anche un premio dal paese in cui noi proviamo, che è Moimacco, dove vivo io. Il paese ci ha premiato tra i giovani che si sono dati da fare nel tempo. È arrivato questo attestato dal comune proprio serissimo in cui scrivevano El Capanon anche loro, che è un nome di nostra invenzione in realtà, non esiste. Sì. Cioè. E praticamente il capanon cos'è? È un capanno in cui mio nonno teneva i trattori, aveva due trattori quando ero piccolo, mi ricordo. Poi i trattori sono stati venduti e quindi è andato un po' in disuso, era lì sempre ma non si utilizzava per niente. E quando abbiamo deciso di fare un CD, a quel punto avevamo l'idea iniziale proprio era di registrare il CD ma sentire anche il suono della stanza in cui veniva registrato, quindi l'ambiente era importante. Da lì abbiamo fatto un po' una selezione, abbiamo provato a casa mia, abbiamo provato a casa di Fra, in un'altra casa disabitata, e il capanno non ci piaceva, è un bello stanzone grande, quindi è un riverbero naturale in sé, e ci piaceva, abbiamo detto va bene, registriamo un CD qua. Forse ce ne siamo pentiti dopo, perché il produttore a un certo punto, dopo due settimane che viveva lì, perché proprio dormiva lì... Sì, abbiamo tutto allestito con materassi, divani e stavamo lì a dormire proprio. È stato trattato acusticamente, faccio le virgolette con le dita, non lo posso vedere. Fatto un ritiro, si direbbe, esatto, in ambito sportivo. Dopo due settimane lui è anche dovuto andare in ospedale perché aveva tipo una specie di irritazione su tutta la pelle e gli ha dato cortisone proprio, però poi ha continuato a registrare, siamo andati avanti, per spiegare che non era neanche nelle condizioni più sane possibili, certo. Però è stata un'esperienza. Nottate a registrare con i fulmini, a registrare i tamburoni, sentire il gallo che cantava vicino perché campagna. C'era una canzone fino all'ultimo, eravamo indecisi se tenere il canto di un gallo che a un certo punto veramente sbarellava e faceva... E partiva lì, sì. E io avevo votato di tenerlo, poi mi ha detto no, forse è troppo estrema come cosa. L'aspetto democratico e ha dovuto abbassarti un po'. Forse meglio così, eh. Sentite ragazzi, allora, tutte sono 9 brani, giusto? Se non mi sbaglio. Sì, 9. 9. Tutte cantate in italiano. È una scelta perché non è così scontato che tutte le canzoni, soprattutto al debutto, siano italiane. È stata una scelta e una necessità da un certo punto di vista. Una necessità perché per alcuni di noi l'inglese comunque non è una lingua che è parlata benissimo. Io parlo per me, ma in realtà tutti noi comunque non parliamo un inglese che è comparabile all'inglese vero e proprio. E sicuramente dell'italiano abbiamo pensato una cosa. Quando vai a vedere un concerto in inglese in generale anche... è molto difficile comunque percepire le parole, anche in un concerto in italiano è difficile percepirle se non stai attento, e la nostra volontà è comunque cercare di arrivare più vicini possibile alla gente. La cosa più bella, anche prima parlavamo di alcuni contesti in cui abbiamo suonato anche in dei boschi, sì, molto vicino alla gente, secondo me sono i più belli, quando sei proprio a contatto col pubblico. Abbiamo suonato anche diverse volte per strada e essere vicini in questo momento qua, non fare uno show tu e delle persone sedute lì ad ascoltare, ma fare qualcosa insieme è la cosa più bella. Quindi sicuramente poter arrivare alle persone e arrivarci meglio, secondo noi potevamo farlo tramite l'italiano. Certo, certo. E a proposito appunto di quello che si parlava prima, di quanto coinvolge la vostra musica e del vostro modo di essere che inevitabilmente coinvolge poi un po' tutte le persone. Prossima canzone si chiama Bon. Parlateci di questa canzone e poi la mandiamo in onda. È un po' una presa in giro. Tutte le cose che vengono citate sono delle nostre preoccupazioni di ognuno di noi, e che molto spesso ci fanno, diciamo, agitare oltre il necessario, ecco. Poi capita, come ieri sera, di suonare per un evento di raccolta fondi per Emergency e di cogliere quanto ci siano delle realtà effettivamente molto molto peggiori delle nostre, e quindi questo fa un po' rivalutare tutti questi problemi che ci facciamo, che sono veramente molto ridotti e molto superabili, molto facilmente superabili. Quindi questa canzone è un po' una presa in giro, dice non dire boh, nel senso boom, noi lo usiamo molto come è andata così, no? Sì. Ma invece reagisci alle cose, certo, in maniera propositiva. Certo. E quindi questa è boom. Quindi questa è una canzone che trasmette positività. Ascoltiamoci allora Bon. È stata una giornata di merda, non basta mica aver pestato una. Guarda, che c'è di peggio, sai. Non basta mica una connessione lenta, una birra vuota o una sigaretta spenta. Pensa, può andare peggio, sai. Non dire mai più bon, non dire bon. Non senti a niente la maglietta bucata, né la tua amorosa sempre incazzata. Pensa, arriva il sole e vai. Solo per colpa di un esame andato male, tirati su, non siamo mica un funerale. Basta, guarda il cielo, sai. Non dire mai più bon, non dire bon. Mi prendo cura io dei tuoi smeri mentali, anche se sono solo problemi dentali. È meglio che non si sappia in giro, meglio che tagli quella barba arruffata, pulisci il bagno, studia, datti una lavata e sveglia. È troppo tardi ormai. Non dire mai più bon, non dire bon. Non dire mai più bon, non dire bon. Amico mio, la strada è lunga e non dire mai. Mi sento solo, sai. Sei così bella tu, ragazza di perla, non mi lasciare mai. Mi sento sola, ho paura del vuoto e mi prendi tra i denti e le labbra e le braccia che hai. E vieni via con me, sì, vieni via con me. Guarda la luna che stanotte riempie il cielo, guarda i suoi occhi e non ti sentirai più solo. Sfiora la pelle del suo viso. Lei gioca a nascondersi tra le lenzuola rosse, scopri il suo corpo e non pensavi mai che fosse vero. Un sogno così dolce. Ora non dici bon, non dici bon. Amico mio, la strada è lunga e non dire mai. Mi sento solo, sai. Sei così bella tu, ragazza di perla, non mi lasciare mai. Mi sento sola, ho paura del vuoto e mi prendi tra i denti e le labbra e le braccia che hai. Vieni via con me, vieni via con me, vieni via con me, sì, vieni via con me. Rockwave con Alberto Prisco, tutti i mercoledì dalle ore 19 alle 20:30 sulle frequenze di Radio Cooperativa. Allora vi ricordo che siete con Radio Cooperativa, Gilles Facchinelli e il suo programma Io Mi Racconto, che fa parte di quel gran contenitore di Rockwave dove alterna la classifica settimanale di Alberto Prisco, la classifica rock internazionale, e appunto Io Mi Racconto con il sottoscritto, dove andiamo a intervistare e far conoscere questi gruppi emergenti. Con noi oggi il gruppo dei Cinque Uomini sulla Cassa del Morto, e qui con noi c'è Francesco e Alberto, perché loro sono in cinque, ma per motivi loro organizzativi questa sera non potevano esserci tutti. Avremo modo di averli ospiti magari una fase successiva, magari a presentare spero presto, il nuovo CD. Volentieri. Allora, prima parlavamo un po' di quei dei violini, no? Io ho visto una foto dove li ho contati, erano circa, non so dove eravate, su un palco e c'erano circa una ventina di violini. Dov'era? Forse la foto che hai visto era in un teatro di Cividale, che è il posto dove abitiamo noi, e risale all'anno scorso, in cui abbiamo avuto la grandissima fortuna di fare questa collaborazione con un'orchestra giovanile del territorio, che praticamente noi conosciamo tramite vie traverse, diciamo. E abbiamo appunto avuto questa occasione di arrangiare un lavoro che abbiamo fatto io e l'altro, il violinista proprio del gruppo, Davide, arrangiare alcuni nostri brani per orchestra d'archi. Significa scrivere praticamente tutti gli arrangiamenti e le parti per l'orchestra in modo tale che potessero suonare con noi le nostre canzoni. E abbiamo fatto 4-5 concerti con questo progetto. È veramente uno un po' di quei sogni nel cassetto, no? Oh, sarebbe bello suonare con un'orchestra. Fatto. E non c'è nulla da poter recuperare per potervi ascoltare in quel concerto. Non so se avete una registrazione. No, non di qualità. Ci sono video girati molto... Però non si sa mai, comunque le parti ci sono, è un progetto attivo. È molto difficile da realizzare perché ci vogliono spazi grandi, perché sono comunque oltre noi 5 che comunque occupiamo molto spazio sul palco, altre 20 e passa persone, è molto difficile da organizzare. Però sicuramente in futuro lo rifaremo, anche in una scala più grande, con anche più brani di quelli che abbiamo già fatto con loro. Parlando di concerti, ragazzi, io ne ho visto, grosso modo, avete fatto circa, io dico circa perché credo siano a questo punto anche di più, circa 200 concerti. Cioè, questo da quando siete in pratica nati come gruppo, che è 3 anni? 4 anni fa. Abbiamo compiuto 4 anni, mi sembra, l'anno scorso. Adesso stiamo per compierne 5. I primi concerti, cioè, abbiamo iniziato a fare concerti abbastanza spesso dalla primavera del 2014. Quindi, insomma, 4 anni fa, però comunque il gruppo esiste da un pochino prima. Comunque, li avete contati alla fine? Quanti sono? Sono più di 200, no? In precisione tra i 220-230 circa. Sono tanti, sono tantissimi, eh? Sono tanti. Sicuramente fanno tanta esperienza. Quello che vi ha emozionato di più, che vi ha lasciato un ricordo particolare? Ci sono, secondo me, emozioni diverse. Abbiamo suonato certe volte, ad esempio, in centri di salute mentale, e sono state delle situazioni molto forti, molto belle, anche perché lo facevi per queste persone ed era una cosa bellissima. Abbiamo suonato in un carcere una volta a Ferrara. È anche stata una sensazione molto strana entrare, vedere questi doppi portoni che si aprivano, entrare dentro era stranissimo. Certo, poi è stata bellissima tutta la parte in cui poi effettivamente ci siamo messi a parlare anche con i carcerati, hanno suonato anche loro, è stata una cosa molto bella. Dall'altra parte c'è stato un concerto particolare, l'apertura ai Franz Ferdinand a Lignano, e quello lì è stato secondo me un momento magico, perché era un diciamo, po' per noi... Diciamo per chi non conosce il gruppo, chi esatto. Sono? Sono un gruppo indie rock molto famoso, inglese, sono inglesi loro. Scozzesi. Scozzesi. E sono, noi l'abbiamo sempre sentiti come un gruppo grande, per noi è stato come entrare in un sogno, in una favola. Certo. Quindi avevamo il camerino, c'erano loro che giravano, all'inizio erano tutti lì e dicevano, oddio, ma sono loro, così così. E poi la roba più bella invece è stata vedere che magari durante il nostro concerto, abbiamo suonato una mezz'oretta penso quella volta, c'era il loro cantante che ci faceva un video perché era divertito e stava guardando la canzone, ci ha fatto i complimenti dopo, e dopo il concerto eravamo a bere insieme, a parlare insieme con questa band che per noi veramente erano distantissimi là in alto. Ma la cosa che mi ha stupito di più loro soprattutto è stata veramente la vicinanza, la semplicità, che pensi che delle persone che magari stavano girando con un pullman in mezzo Europa non ci avrebbero calcolato minimamente, li vedi sempre come distanti, no? Certo. E invece sono delle persone come tutti che si divertono e carinissime. Io vorrei riuscire a potervi trasmettere l'entusiasmo che ho anch'io ad ascoltare questi ragazzi. Non sono più giovanissimo, però veramente sanno trasmettere un qualcosa di particolare. Ogni volta che chiudo questi microfoni vado a casa veramente sempre arricchito di un qualcosina in più. A proposito di concerti, poi passiamo al prossimo brano. Voi avete fatto, che io sono andato un paio di volte anche vederlo, siete stati 5 anni consecutivi al Buskers a Ferrara, ma anche tra le altre tante cose che avete fatto un concerto a Chamonix. E penso sia stato anche quello una cosa veramente emozionante. Soprattutto a Chamonix, ma a 2000 metri d'altitudine. Sì. Quindi era il concerto più lontano che avevamo e anche il concerto più alto che avevamo. Ma come mai Chamonix? Come è venuta fuori questa cosa? Lì è stato più che altro una cosa, era una festa alla fine privata perché era il matrimonio di mio fratello, quindi sì. Mio fratello chiaramente non può chiamare altre band se non la band della... sì, ma... anche sì. Perché siamo più economici sicuramente. Esatto. E quindi ci ha chiesto, è stata una cosa molto bella perché poi sono state fatte delle varie sorprese per cui abbiamo ricreato dei gruppi vecchi suoi, ma in sostanza la serata era il nostro concerto, quindi abbiamo suonato per loro e per tutti gli ospiti in questa stanza che su 3 parti aveva vetrate completamente sulle montagne. È stato molto, molto bello, particolare. Beh, c'era la neve, immagino di sì. No. Anzi, si stava in camicia. Addirittura. Sì, la neve è arrivata il giorno dopo. Allora ragazzi, dobbiamo correre un pochino. La prossima canzone si chiama Blue, che è anche la canzone che dà il titolo al vostro CD. Parlateci un po' di Blue. Blue è una canzone molto semplice che racconta uno scambio di sguardi durante un concerto. Durante un concerto, tra l'altro, proprio ai Buskers di Ferrara. Verrò a vedervi, Ci sarete l'anno prossimo? Non sappiamo. Ma forse vabbè, sì. Comunque mi tenete informato, se ci siete sicuramente vengo a trovarvi. E insomma è stato un po' un modo per raccontare questa storia e poi un po' per un caso è diventato anche il titolo del disco. Insomma, una canzone che comunque ci rappresenta perché ci sono un po' di idee al suo interno, come il violino e un po' anche dei giochi, le voci che vanno insieme, insomma. La ritmica anche. Sì. La storia è molto semplice, questo sguardo e questo, diciamo, ricordarsi di quest'estate a Ferrara durante il festival. Bene, allora ascoltiamoci queste meravigliose note, questa meravigliosa musica folk, si chiama Blue, loro sono i 5 uomini sulla cassa del morto. Radio Cooperativa. Fossi un aeroplano, tu mio rosso tulipano, io ti porto via con me. Si alza il vento che ci porterà lontano, dai tu prendimi la mano e vieni via con me. aeroplano, tu mio rosso tulipano, io ti porto via con me, io ti porto via con me, io ti porto via con me, io ti porto via con me. Si alza il vento che ci porterà lontano, dai tu prendimi la mano, vieni via con me. Ci porterà lontano, dai tu prendimi la mano, vieni via con me. Radio Cooperativa ti tiene compagnia 24 ore su 24, con trasmissioni d'attualità, di cultura e di impegno sociale. Allora ragazzi, queste sonorità, l'ho detto prima e continuo a dirlo anche adesso, vi consiglio di ascoltarli. Andate in YouTube, digitate 5 uomini sulla cassa del morto, vi esce un po' la loro musica, ma magari dove possono trovarvi, oltre che su YouTube? Beh sì, inizialmente c'è sicuramente su Spotify, dove c'è il nostro disco in ascolto, ma solo perché è il portale più conosciuto, poi in realtà siamo ovunque, quindi su qualsiasi portale voi siete abituati ad utilizzare per ascoltare musica ci siamo, quindi basta fare una ricerca veloce e il nostro disco lo si trova. Ecco, sapete che dovete tenerci informati, dobbiamo stare in contatto, perché la vostra musica poi non si limiterà a questa trasmissione. Curerò un programma di musica italiana dove ci sono gli artisti conosciutissimi, però ci saranno anche i brani dei nostri ospiti inseriti dentro un po' a rotazione. Quindi la vostra musica avrà un seguito sicuramente in questa emittente. Siamo liberi, possiamo fare quello che vogliamo, sì, e mettere su la musica che vogliamo. Dobbiamo correre. Allora adesso la macchina dei concerti presto si fermerà. Per fortuna, purtroppo per voi, non lo so, probabilmente dovrete fare anche una pausa. Si ferma e che succede? Proprio un time out totale oppure si comincia subito a lavorare magari a qualcosa di nuovo? Beh, stiamo già lavorando in realtà, stiamo ultimando, diciamo, le registrazioni del nostro secondo disco, che vedrà la luce probabilmente il prossimo anno, e adesso dovremo un po' organizzarci, quindi spendere del tempo anche per questa fase organizzativa per pubblicarlo al meglio delle nostre possibilità. Sicuramente noi vorremmo che la nostra musica arrivi a più persone di quelle a cui arriva già adesso. Noi ci mettiamo il nostro, eh? Infatti vi ringraziamo moltissimo davvero, e quindi insomma cercheremo di dedicare un po' di tempo anche a questo, poi dopo con la primavera si riparte con la giostra. La canzone del sorriso è il prossimo brano che mandiamo in onda. Sì. Raccontaci un po' di... Forse è una canzone un po' particolare perché è stata scritta per una necessità. A un certo punto c'era una persona vicina a noi che stava male e abbiamo pensato cosa si può fare per una persona che in un momento sta male, ha un problema e non, diciamo, volevamo dargli un sorriso appunto, e quindi la volontà è stata proprio con questa canzone di cercargli di dare questa forza, cioè la canzone è stata proprio scritta con questo intento, e speriamo che funzioni in questo modo anche per gli ascoltatori. Certo, certo. Allora ascoltiamoci la canzone del sorriso. Questa è la canzone del sorriso, ti fa ridere di gusto, non pensare a cose brutte che la vita è in serbo, salta, grida, vola, balla tutto il giorno fino all'alba, bacia, amma, abbraccia e mordi, senti il vento fra i capelli. Salto oltre il mondo che non rivedrò, un bacio sulle labbra assaporerò, guardandoti negli occhi, stringendoti la mano. Un salto sulla nave salperò, un sacco per le storie che ascolterò, un telo per la terra su cui dormirò, restando faccia a faccia con l'universo intero, inutili pensieri indietro lascerò. Sorriso ti fa ridere di gusto, non pensare a cose brutte che la vita è servo. Gridavo la balla tutto il giorno fino all'alba, bacia, amma, abbraccio e mordi, senti il vento fra i capelli. La canzone del sorriso ti fa ridere di gusto, non pensare a cose brutte che la vita è servo. Gridavo la balla tutto il giorno fino all'alba, bacia, amma, abbraccio e mordi, senti il vento fra i capelli. È una giornata scura all'ombra di una bajur. Il freddo soffia impazza, la rabbia che si attizza, vedi il treno che passa suonando a te la grida. Ti dice prendi il mondo e portalo con te, ti dice salta addosso al mostro che ti assale, sguainando la tua spada, saltando a testa alta, portando un fiero al petto il trofeo della battaglia. Ormai nessuno al mondo fermare te potrà. Sorriso ti fa ridere di gusto, non pensare a cose brutte che la vita è servo. Gridavo la balla tutto il giorno fino all'alba, bacia, amma, abbraccio e mordi, senti il vento fra i capelli. La canzone del sorriso ti fa ridere di gusto, non pensare a cose brutte che la vita è servo. Gridavo la balla tutto il giorno fino all'alba, bacia, amma, abbraccio e mordi, senti il vento fra i capelli. Canzone del sorriso ti fa ridere di gusto, non pensare a cose brutte che la vita è servo. Gridavo la balla tutto il giorno fino all'alba, bacia, amma, abbraccio e mordi, senti il vento fra i capelli. La canzone del sorriso ti fa ridere di gusto, non pensare a cose brutte che la vita è servo. Gridavo la balla tutto il giorno fino all'alba, bacia, amma, abbraccio e mordi, senti il vento fra i capelli. Questa è la canzone del sorriso e ti fa ridere di gusto. Rock Wave Live presenta Io mi racconto con Gilles Facchinelli e i suoi ospiti. Tutti i giovedì dalle ore 20.30 alle 21.45 sulle frequenze di Radio Cooperativa. Inevitabile pensare, mentre voi suonate, la gente davanti cosa fa. Voi avete provato questa esperienza, presumo che non staranno fermi. Sì, ragazze che si spogliano, ragazzini che volano. È per questo che vogliamo venire ai vostri concerti. No, quello rimane sempre tra i sogni, no? Quello non è ancora mai capitato. Lancio di reggiseni, via. Però vedere la gente che balla e che è presa nella musica è sempre una cosa molto bella. È certo. Molto bello. Anche perché comunque tutto il mondo che c'è intorno ai concerti è molto stancante. Noi ci autogestiamo in tutto, quindi... arrivare nel posto dove sei a suonare, montare tutto l'impianto, tutto, fare il check, le prove, eccetera. Quindi molte volte le energie vengono a mancare e molte volte noi ci ricarichiamo con le energie delle persone che a loro volta si ricaricano con le nostre. Quindi c'è questo scambio di energia nei concerti che è veramente bello. Magari cominci un concerto che sei stanco, magari hai litigato per altre questioni organizzative o altre cose, e dopo un paio di canzoni senti proprio questa energia che ti invade e che fa passare qualsiasi tipo di problema. E si crea sempre un clima veramente che noi veramente cerchiamo, che ci fa sentire molto bene e che siamo veramente felici di condividere anche con chi viene ai nostri concerti. Io vi voglio immaginare quando siete assieme un po' casinari, ma nel senso positivo della cosa, troppo dell'allegria proprio. Chi è più casinaro di voi alla fine? Diciamo che ci sono diversi personaggi, vedi diverse parti di noi, no? C'è quello più Sdavas, che forse non si usa qui. Sdavas come si può interpretare? Trasandato. No, non trasandato, tipo un po' distratto, goffo. Sbraccato. Maldestro. Sbraccato. Sbraccato, No, dipende anche dai concerti, perché molte volte se uno ha la testa su alto, tipo esami, lavoro, eccetera, ha un certo tipo di apporto di energia al concerto. Se uno invece magari ha finito gli esami, è finita la sessione, è in vacanza, allora si lascia andare. Quindi giriamo un po', non c'è sempre un tipo fisso. Certo. E qui vi mando in competizione. Più figo invece chi è? Non si dice più figo chi è. Beh, se no litighiamo, già litighiamo troppo. Vedi, che ti ho detto, vi mando in competizione. Tutti, quindi. Tutti bellissimi. Nello stesso modo, no? Sì. Allora, ragazzi, purtroppo siamo alla fine della trasmissione. Volevo farvi parlare un po' dell'ultimo brano, che non è che lo preferisco. Al primo ascolto è quello che mi ha trasmesso un pochino, qualcosina un pochino di più rispetto alle altre, però poi vi dico la verità, forse ascoltare la vostra musica non è stata più la preferita, non so più dire qual è la più bella di questo CD. Parlatemi un po' di La danza della luna. La danza della luna è una canzone molto interessante, perché è mentre tante volte per le canzoni il testo e la musica iniziale, l'idea quindi iniziale, l'idea più forte, la colonna portante viene data da una persona, in questo caso il testo è stato scritto da Leonardo, che è il bassista, e poi le musiche invece, anche la melodia della voce, sono state scritte da Francesco. In questa canzone, perlomeno questo è come ce l'ha raccontata Leo, lui si immaginava tornare da lavoro pieno di problemi, da stanchezza, tutte queste cose qua, ma per una sera lasciare tutto fuori, danzare sotto la luna, diciamo. Quindi è un po' anche questo un monito, si conclude... No, non si conclude l'album, è vero. Sto dicendo una cavolata. No, poi ci sono altri due brani. E c'è questa idea quindi di arrivare alla serata, però lasciare tutto fuori e comunque godersi una parte della vita. Quindi un CD pieno, si può dire, pieno di positività alla fine, no? Sì. Ascoltando un po' le vostre parole. Io, Radio Cooperativa, il sottoscritto, siamo veramente orgogliosi di avervi ospitato qui in questa emittente, far ascoltare la vostra musica, ma soprattutto la vostra voce qui in diretta. L'invito è, come vi ho detto, di avervi qui, avvisandoci un po' per tempo, di programmare, e sarò ulteriormente orgoglioso di... sarà grosso modo stessa musicalità o cambia? Un po' cambia. Qualcosina cambierà. Sarà una sorpresa, non diciamo niente, ok? Ringrazio anche Annalisa di Libellula Press, che è appunto... Libellula Press o Libellula Music? Libellula Music, mi sembra sia... che mi ha dato modo un po' poi di contattarvi e di ospitarvi qui in Radio Cooperativa. Ecco, cosa dire, vorrei un saluto da parte vostra alla nostra emittente e soprattutto a chi ci ascolta. Beh, ti ringraziamo tantissimo anche per le bellissime parole, per il tempo, ringraziamo Radio Cooperativa e speriamo di rivederci assolutamente nei prossimi mesi. Francesco? Grazie mille, sì, come dice Alberto, siamo veramente felici di questo invito e niente, speriamo di vederci sotto il palco anche con gli ascoltatori. Contaci. Allora ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento a giovedì prossimo. Vi saluto con questa ultima canzone dei Cinque Uomini sulla Cassa del Morto, il brano è La Danza della Luna. Radio Cooperativa. L'orizzonte, portami lì dove finisce il mare, tu fai. balliamo tutta notte ed il mondo passerà. Balliamo fino all'alba, fin quando arriva il sole. Con un sorriso lui ci saluterà. Radio Cooperativa ti tiene compagnia 24 ore su 24, con trasmissioni d'attualità, di cultura e d'impegno sociale.